as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, anche oggi ad Il Pane e le Rose parleremo di contrattori metalmeccanici. Lo faremo con Gianni Cotugno, segretario regionale della FIOM. Abbiamo intervistato mentre tornavamo dall'assemblea dei delegati, eravamo in treno, sentirete un po' di rumore. Anche qui oggi la puntata la faccio molto breve, l'introduzione c'è poco da dire, abbiamo una piattaforma da rinnovare, ci saranno le assemblee in questi giorni in tutte le fabbriche ed è giusto che i metalmeccanici ascoltino tutti quello che si dirà in assemblea, ma anche il nostro programma sarà, penso, utile, perché in questa puntata Gianni Cotugno approfondirà meglio in alcuni argomenti insieme a me della piattaforma. Ecco. Qualcuno mi chiede: ma come facciamo a sentire la trasmissione? Spesso non riusciamo, lavoriamo. C'è la pagina podcast Il Pane delle Rose, andate sul mio profilo Facebook, chi mi conosce, se no andate sulla pagina Facebook Il Pane delle Rose e troverete le puntate in podcast, cliccate e vi ascoltate le puntate, potete condividerle senza nessun problema, fatele girare, soprattutto queste puntate che sono informative, servono per capire meglio la piattaforma del contratto nazionale. È importante anche per tutti i lavoratori conoscerla, perché è una piattaforma che ha tanti spunti positivi, alcuni un po' meno, però poi ne parleremo anche successivamente delle parti che non vanno. Io vi lascio qui all'intervista di Gianni Cotugno e non faremo nemmeno le conclusioni, perché anche qui le conclusioni le tireremo fuori io e Gianni. La prossima puntata. Salve a tutti. Scritte sopra i muri, noi la conquista di ogni bar. Fuori dai concerti, perdevamo anche l'ultimo tram. Sentimenti, amori, scritti nel DNA. Sogni costruiti tra le mura di questa città. Anni divorati dalle nostre notti punk. E anche il tempo adesso ha abbandonato ogni sua velleità. Lividi e sudore, il ribelle vive qua. Sotto ad un palco perso, col suo sogno perverso. Quello che sei, quello che vuoi. Porti la tua città in fondo all'anima. Quello che hai, quello che fai. Fratelli andati via, ricordi e nostalgia. Chiuso in un cassetto di leggende di realtà, la tua vecchia polo ormai strappata ti ricorderà. Ma quale tricolore la mia patria è una città. Pongo i notti di gloria, sono la nostra storia. Quello che sei, quello che vuoi. Porti la tua città in fondo all'anima. Quello che hai, quello che fai. Ribelli e polizia, ricordi e nostalgia. Yeah. Allora, eccoci qua, siamo dal ritorno dell'assemblea dei delegati metalmeccanici di oggi a Roma, si è svolta il 20 febbraio, oggi è una giornata importantissima, abbiamo avuto il comitato centrale del 19 in cui abbiamo discusso della piattaforma del contratto nazionale e oggi è stata presentata ufficialmente, prima tutti i delegati, gran parte dei dirigenti nazionali di FIOM, FIM e WILM a Teatro Italia a Roma. E qui oggi con noi qui abbiamo il segretario regionale della FIOM Gianni Cotugno e con lui parleremo un po' di questa piattaforma. Oggi sarà la conferenza stampa, credo alle 3, dunque è stata già presentata. Ma illustraci un po' i punti importanti di questa piattaforma di nomi metalmeccanici, che a poco ci saranno le assemblee, verranno presentate a tutti i lavoratori, ma noi cominciamo già a parlarne con te e in radio la daremo una puntata imminente in cui discuteremo di questo. Allora, innanzitutto, prima di entrare nel merito dei punti della piattaforma, entro nel metodo attraverso cui ci approcciamo a rinnovare il contratto, che è un metodo di partecipazione. Abbiamo appena battezzato la piattaforma a livello di organizzazioni sindacali. Il grande lavoro che abbiamo da fare ora è di farla vivere in tutte le aziende metalmeccaniche della nostra regione e del nostro paese. Questo è un passo importante perché per le richieste estremamente significative che presentiamo in piattaforma siamo convinti che senza una reale partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori sarà ancora più complesso provare a portare a casa gli elementi salienti della nostra piattaforma. Venendo invece al merito, senza ombra di dubbio un elemento centrale è quello del salario, doppiamente importante perché usciamo, speriamo almeno di esserne usciti, da una fase estremamente importante dal punto di vista degli aumenti inflativi e della corrosione del potere d'acquisto di tutte le famiglie italiane. Sebbene come metalmeccanici questo meccanismo è stato in parte compensato dagli aumenti appunto derivanti dal contratto nazionale in scadenza, che ha determinato un recupero parziale, ma un recupero significativo rispetto al potere d'acquisto, c'è un pezzo che non abbiamo recuperato. La richiesta economica che presentiamo alle controparti, un incremento a regime di 280 euro, ha appunto questo elemento qui, di superare uno schema legato all'IPCA e di prevedere il recupero di quell'inflazione che in questo contratto non abbiamo portato a casa. Perché appunto, sebbene negli scorsi aumenti contrattuali abbiamo compensato in parte l'aumento dell'inflazione, l'obiettivo che ci poniamo con questo contratto è di recuperare totalmente il potere d'acquisto perso, motivo per cui la richiesta economica è molto importante, 280 euro di aumento a regime, con un meccanismo che prevede, oltre come dire, al mantenimento di quello che è il potere d'acquisto e quindi il collegamento rispetto all'inflazione, ma una cifra aggiuntiva che pari quasi alla metà di questa richiesta di aumento, che appunto ha l'obiettivo di recuperare il potere d'acquisto perso negli ultimi anni. Ci sono altri elementi, che c'ero anch'io, no? Ovviamente. C'erano altri elementi che chiaramente la prima domanda che ci faranno i lavoratori sarà: la clausola di salvaguardia rimarrà? Perché è stata una delle innovazioni dell'ultimo contratto nazionale dei metalmeccanici, siamo gli unici ad averla. Se la vuoi spiegare in radio e se rimarrà o meno, se c'è nella piattaforma, che poi le domande che ci fanno i metalmeccanici. Ma la clausola di salvaguardia è stato un atto di lungimiranza impressionante da parte della FIOM. Ricordo le assemblee dove spiegavamo gli aumenti del contratto nazionale, in cui dicevamo c'è un aumento di 100 euro nel corso del triennio e un meccanismo di salvaguardia legato all'inflazione, dicendo anche che mai l'inflazione supererà il 4%, che era l'incremento portato a casa. Invece ci siamo ritrovati in una condizione eccezionale, come molto spesso ci troviamo a vivere, aver previsto una clausola che prevedesse l'adeguamento dei salari all'inflazione, per l'esattezza all'indice IPCA depura dall'inflazione. Infatti non abbiamo recuperato tutta l'inflazione. È quello che dicevo, il recupero parziale è dovuto principalmente al fatto che il meccanismo dell'IPCA non prevedeva il recupero dei beni energetici importati. È un meccanismo a volte anche un po' perverso, che spiego. Questo, per quanto riguarda l'aumento che prenderemo a giugno, si verifica un meccanismo opposto a quello dell'anno scorso, perché l'indice IPCA, per effetto dell'abbassamento dei prezzi, dei costi dell'energia lungo il 2023, l'indice IPCA è maggiore dell'inflazione, quindi nel 2024 recupereremo qualcosina in più. Certo. Meccanismo, quello dell'IPCA è un meccanismo un po' strano, tornando alla clausola di salvaguardia che ci ha consentito come dire, di recuperare pezzi di paga importanti. Lo scorso giugno un quinto livello metalmeccanico ha portato a casa 130 euro di aumento salariale mensile. Io penso che verrà messo in discussione, ma non tanto da noi, penso che saranno le controparti a voler discutere, perché non si aspettavano degli scostamenti così importanti. Dobbiamo anche dire, come dire, rispetto a un clima delle imprese, una lamentela delle imprese rispetto agli aumenti, dobbiamo sottolineare un elemento: da tutti gli studi che abbiamo fatto nel corso di questi anni, i profitti delle imprese sono quelli che hanno guidato l'inflazione e che in proporzione gli aumenti contrattuali, gli aumenti salariali importanti che sono stati riconosciuti, ma rappresentano una minima parte rispetto ai profitti, all'incremento dei profitti delle imprese. Io penso che saranno le imprese stesse a voler mettere in discussione la clausola di salvaguardia. È sicuramente questo. E, ci sono altre due questioni sul salario che sono importanti. Certo. Una che riguarda chi non ha il secondo livello di contrattazione, che è l'evento perequativo, che è una cifra di 700 euro, anche qui è una cosa, purtroppo in Italia parliamo di contratto nazionale, a Bologna dove molti lo fanno il secondo livello, dove non ne hanno diritto, ma in realtà in Italia tantissimo, penso che siano 80%, 90%, quant'è la percentuale di chi non fa il secondo livello di contrattazione? E oltre il 70% sono i lavoratori non coperti dalla contrattazione aziendale. Questa, secondo te, questa richiesta? C'è un duplice, in realtà c'è un duplice meccanismo dietro la voce premio perequativo. Passiamo a un cambiamento che non è solamente di nome, oggi questo elemento si chiama elemento perequativo e vale 485 euro. La richiesta, lo ripeto, non è solo economica di portarlo a 700, ma è anche che deve essere riconosciuto a tutti quei lavoratori che non hanno un premio aziendale, che non hanno un contratto da cui scaturisce un premio. Oggi l'elemento perequativo sostituisce anche super minimi, tutto ciò che è aggiuntivo rispetto alla paga base. L'elemento culturale profondo di questa richiesta è legato appunto a questo, lo stimolo che deve avere questa modifica contrattuale, da dove riuscissimo a portarla a casa rispetto alla contrattazione collettiva. La semplifico, considerando che un'azienda che non ha una contrattazione aziendale dovrà pagare questi 700 euro come la nostra richiesta, la nostra idea è che ci sia un incentivo a svolgere una contrattazione aziendale che diminuisce anche il costo per l'impresa rispetto al beneficio anche del lavoratore. I premi derivanti dai contratti aziendali sono sostanzialmente detassati. Certo, questo qua è una spinta verso il secondo livello di contrattazione, sono anni che ci proviamo però non siamo ancora riusciti. C'è un'altra questione che a me non appassiona tantissimo, però moltissimi lavoratori, soprattutto gli impiegati, soprattutto dopo l'aumento che c'è stato giugno scorso, ha sollevato un sacco di polemiche. Però questi sono dei super minimi e nella piattaforma si affronta la questione dei super minimi. Mi sembra che non è stato mai affrontato in passato. No, è un unicum da questo punto di vista. È anche un elemento che ha generato forti discussioni al nostro interno, lo dobbiamo ammettere, perché oggi facciamo una richiesta collettiva rispetto ad un elemento che è prevalentemente individuale, cioè il super minimo che il lavoratore contratta da sé. Qual è il ragionamento? Questa caratteristica, questo utilizzo dei super minimi è molto spesso caratterizza soprattutto i lavoratori impiegati, con bassi tassi di sindacalizzazione e basso coinvolgimento rispetto alle iniziative sindacali. Dal mio punto di vista, inserire questa richiesta all'interno del contratto porta con sé un'idea progettuale che cura di sindacalizzazione anche degli impiegati. Non ci dimentichiamo che la percentuale di impiegati presenti nelle nostre imprese è sempre maggiore. A Bologna si stima che abbia da un po' di anni superato il 50% degli addetti nel settore. Quindi qual è l'idea che ci sta dietro? Di costruire percorsi di sindacalizzazione degli impiegati partendo dall'elemento centrale, che è quello della retribuzione. Quindi rendere gli aumenti del contratto nazionale, autorità salariale per tutti i lavoratori, e quindi impedire che le imprese possano a loro piacimento assorbire o non assorbire gli aumenti contrattuali a seconda di quelle che possono essere anche elementi di convenienza. Laddove si stabilisce il principio che non sono assorbibili, che gli aumenti contrattuali non vanno ad assorbire i super minimi individuali, il contratto varrebbe per tutti i lavoratori nel loro insieme. Quindi è duplice l'autorità salariale del contratto, e da un altro punto di vista un ragionamento che noi ci dobbiamo porre, ma ci dobbiamo porre in questi mesi, perché io non credo negli elementi gratuiti relativi alla contrattazione, cioè non ho in testa un regalo o un pezzo che non è sindacalizzato, ma ho in mente un percorso che debba portare a un coinvolgimento dei lavoratori impiegati sulla base di un'esigenza reale, che è quella di non assorbimento dei super minimi. Un altro argomento che farà parlare, perché comunque anche nel nostro territorio, Bologna, di cui si è discusso, la riduzione dell'orario di lavoro. C'è un capitolo nella piattaforma, ci puoi spiegare un attimo cosa si intende? Io posso, allora, è un capitolo che lascia il tema volutamente largo, appunto perché si pone un obiettivo, ma come dire, da un punto di vista strategico lascia aperte varie strade per poterci arrivare. C'è un elemento di fondo legato a questa richiesta, che è il principio che l'innovazione tecnologica, gli automatismi, tutto ciò che oggi è fonte, come dire, di grandi discussioni nelle aziende, servino a ridurre gli orari di lavoro delle persone a parità di produttività, cioè la produttività che venga garantita da un investimento tecnologico piuttosto che dalla fatica delle braccia dei lavoratori. Da un punto di vista generale, un ragionamento estremamente interessante, perché pensiamo anche a tanti settori oggi con alcuni elementi di difficoltà. Noi abbiamo superato alcune grandi crisi industriali, penso per esempio al mondo degli elettrodomestici, che ho avuto anche modo di seguire per un po' di tempo, dove gli investimenti in tecnologie, automazioni, robotizzazioni hanno ridato quella competitività di cui il settore aveva bisogno per competere rispetto ad altri paesi con costi del lavoro più basso. Quella, come dire, come idea generale è l'idea che abbiamo con questa richiesta. Nei paesi occidentali dobbiamo essere consapevoli che non competiamo col costo del lavoro, ma che competiamo con i livelli tecnologici. Se questa tecnologia serve anche a garantire alle imprese la produttività necessaria per abbassare gli orari di lavoro, la strada è questa. L'accordo Lamborghini questo fa, perché molti, perché sui grandi media è passato il messaggio che perché la Lamborghini è ricca può permettersi di far lavorare meno le persone. È aumentata la produttività. Non è questo il punto, è stata aumentata la produttività. La cosa interessante dell'accordo Lamborghini, che come dire, e che è anche la nostra richiesta, è che l'aumento della produttività non la fai sulla pelle delle persone, ma la fai con gli investimenti. Questo è importante. E parliamo proprio della pelle delle persone. Abbiamo due altri argomenti che sono per noi fondamentali, no? Sono due argomenti che nell'ultimo contratto nazionale non erano stati portati a caso: la questione della precarietà e la questione degli appalti. Ci puoi parlare di questi due argomenti, che anche, a me sembrano anche questi due argomenti abbastanza aperti in un certo senso, anche se pongono dei paletti. Pongono degli obiettivi, sugli appalti, quello della tutela dei lavoratori lungo le catene del valore, lungo le catene di fornitura. Bisogna, come dire, oggi è di drammatica attualità anche legato a quanto successo a Firenze qualche giorno fa, e a mio avviso, mi permetto di fare un inciso, che non sta avendo la necessaria la necessaria attenzione e anche la necessaria indignazione, forse perché 4 delle 5 persone rimaste sotto quelle macerie erano non italiani, la dico nella maniera più neutra che posso dare, ma quella tragedia ci insegna una volta di più che è necessario nel mondo degli appalti prevedere delle tutele, dei diritti di informazione aggiuntivi, degli elementi di applicazione dei contratti nazionali, dei livelli minimi di tutela, che anche nel nostro contratto nazionale ci poniamo l'obiettivo di portare a casa, appunto per tutelare anche quelli che oggettivamente all'interno del nostro mondo sono i lavoratori più svantaggiati, insomma più deboli. La clausola sociale per i parti privati, questo caso? Assolutamente sì, nel nostro l'ultimo rinnovo contrattuale avevamo previsto, avevamo portato a compimento la clausola sociale, cioè la continuità occupazionale dei redditi dei lavoratori degli appalti pubblici, e è arrivato il momento di portare questo elemento anche rispetto agli appalti privati, che sono la maggior parte, che rappresentano i punti di maggiore sfruttamento e i punti dove abbiamo bisogno. Spieghiamo la clausola sociale, perché la clausola sociale è quell'elemento che garantisce al lavoratore nel cambio dell'appalto, lavoratore di un'azienda che ha un appalto, quell'appalto cambia, viene affidato ad un'altra azienda, noi sosteniamo da sempre che non è il lavoratore che può perdere il posto di lavoro o sostituito su una logica di maggior profitto. I lavoratori, anche nel cambio dell'azienda che fa quello specifico lavoro in un'azienda metalmeccanica, deve mantenere il posto di lavoro, deve mantenere gli elementi di anzianità aziendale e di continuità di reddito. È un elemento fondamentale della tutela degli appalti. Per quanto riguarda la precarietà? Per quanto riguarda la precarietà, intendiamo porre dei correttivi e di migliorare la normativa nazionale rispetto ai limiti, temporali di utilizzo dei contratti a tempo determinato, provando a porre dei limiti più stringenti e di evitare appunto la sostituzione dei lavoratori, che è una pratica che in alcune tipologie aziendali è ancora troppo spesso usata. Ovviamente stiamo parlando di quelle realtà aziendali con maggior bisogno di manodopera meno qualificata, perché è altrettanto evidente che dove c'è bisogno di una certa esperienza, di una certa capacità lavorativa, è meno presente questo rischio. Lo staff leasing, tu stai parlando anche, c'è un limite per quanto riguarda lo staff leasing? Sta entrando nel dettaglio della proposta, degli obiettivi che ci poniamo è proprio di evitare lo staff leasing, che nella sostanza è quella condizione di precarietà perenne dove il lavoratore che lavora in maniera continuativa, facciamo l'esempio la Bonfiglioli, è un esempio sbagliato perché sappiamo che Bonfiglioli è vietato, non è previsto dalla contrattazione aziendale, ma facciamo conto, dato che conosciamo entrambe bene questa azienda, che in Bonfiglioli è come se ci fosse un lavoratore che lavora in maniera continuativa lì, ma non è dipendente di Bonfiglioli, non ha i diritti e la paga garantiti ai lavoratori Bonfiglioli perché ha un contratto a tempo indeterminato con un'agenzia interinale. Qual è il punto centrale di questo rapporto di lavoro? Che il lavoratore diventa un numero, l'azienda utilizzatrice, nel nostro caso fantasioso, la Bonfiglioli, non ha un rapporto con la persona, si instaura un rapporto commerciale tra l'azienda e l'agenzia interinale, e dove il lavoratore è solo un numero. L'azienda può dire alla società interinale di non aver più bisogno, il rapporto di lavoro resta in capo alla società interinale, che ha qualche minimo obbligo ma ben poche tutele per il lavoratore. Niente, abbiamo affrontato i temi più importanti, ci sono tanti altri temi, sull'inquadramento, sul welfare, ci sono tante altre questioni. Sulla sanità integrativa, che vogliamo, dove c'è anche lì un elemento di principio importante, perché noi avevamo introdotto, ormai sono quasi passati gli anni, la sanità integrativa anche nel nostro settore, con l'obiettivo che non fosse sostitutiva al servizio pubblico. Oggi, considerando anche l'esperienza, che non è andata proprio in questa direzione in questi anni, proviamo sia a prevedere un incremento anche del contributo a carico delle aziende del fondo sanitario, ma con un obiettivo che sia realmente integrativo e non sostitutivo del servizio pubblico. Provo a spiegare questo elemento di principio per comprenderlo. Noi dobbiamo considerare che 1,5 milioni di metalmeccanici iscritti a Metasalute produce una massa economica estremamente importante, stiamo parlando di centinaia di milioni di euro. Se quei soldi, invece di andare ad ingrassare meccanismi di sanità privata, andassero al pubblico contribuendo a finanziare il servizio sanitario nazionale, il rimborso dei ticket potrebbe essere uno di quegli elementi, oppure che quelle prestazioni che oggi ti fanno la sanità privata, se fossero allocate nel pubblico con dei meccanismi ovviamente che non tolgono nulla agli altri lavoratori, finanzierebbero quel sistema. L'obiettivo della nostra sanità integrativa dovrebbe essere quello. Mi sembrava interessante sottolineare questo elemento di principio in un momento in cui l'accesso alle cure, soprattutto per i lavoratori, per coloro che hanno meno soldi e che hanno più difficoltà, sta diventando un problema sempre più grande e va di pari passo con la diminuzione del potere d'acquisto. Per questo mi interessava sottolineare questo elemento. C'era l'ultima questione che trattiamo, poi ti lascio, è la questione della sicurezza. Ci sono delle cose importanti come 36 ore in più per gli RLS, c'è l'attivazione dei break formativi che devono essere attivati dopo l'infortunio, che sono cose importanti perché sappiamo in questo momento sono elementi importanti non di per sé risolutivi. Certo. Se non cambia la cultura della sicurezza del lavoro nel nostro paese, devo dire che settore metalmeccanico è un settore parzialmente più fortunato di altri, sembra, non voglio dire un'esagerazione, è evidente che nelle acciaierie, nelle fonderie, nelle carpenterie ci si fa male, è quasi correlato, come dire, la relazione tra metallo e essere umano porta a questa cosa, ma rispetto a un cantiere edile, rispetto alla strada, rispetto ai lavori, come dire, fatti alla strada, rappresentano, c'è nelle nostre aziende un elemento maggiore di tutela e di attenzione e anche di controllo. No? Dal nostro punto di vista alcune richieste saranno a rafforzare i poteri degli RLS e in generale la cultura della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Ti ringrazio, ne parleremo, ne faremo di puntate sul contratto. La strada è sicuramente lunga, molto ora lunga. Partiamo con le assemblee che vogliamo davvero generalizzare, punteremo a dare degli obiettivi record anche rispetto al passato, finisco dove avevo iniziato, solo col protagonismo dei lavoratori possiamo pensare di dare forma a questa piattaforma estremamente ambiziosa e estremamente importante. Ti ringrazio Gianni. Grazie Gianpaolo. Patria, schiacciata dagli abusi del potere, di gente infame che non sa cos'è il pudore, si credono potenti e gli va bene quello che fanno e tutto gli appartiene. Tra i governanti, quanti perfetti e inutili buffoni, questo paese è devastato dal dolore, ma non vi danno un po' di dispiacere quei corpi in terra senza più calore. Non cambierà, non cambierà. Non cambierà, forse cambierà.